Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, il giudice sportivo innanzitutto. Due giornate di squalifica a Ledesma per comportamento scorretto, erano previste da tariffario perché poi c'è stato un applauso all'arbitro. Una giornata a Kolarov, già diffidato e anche qui siamo nel tariffario. 20.000 euro di multa, avete sentito al giornale radio a Totti per il gesto dei pollici rivolti verso il basso alla sua curva. 40.000 euro di multa sia alla Lazio che alla Roma per diversi episodi come lancio di oggetti in campo e di petardi, in più coli razzisti e disordini e tentativi di sfondare un cordone di Stuart. Ammenda di 5.000 euro a Baronio per aver rivolto a un avversario, che sarebbe Totti, un'espressione minacciosa, e 8.000 euro a Zarate per aver al termine della partita calciato con veemenza il pallone verso un gruppo di calciatori avversari colpendone uno alla schiena. Fino a qui il giudice sportivo. Adesso dovrebbe toccare allo Stato e ai suoi rappresentanti. Leggo da Repubblica a firma di Carlo Bonini. Sistemate in buon ordine su un tavolo della questura c'è l'attrezzeria dell'orrore che racconta cosa doveva diventare il derby scudetto. Leggo l'elenco delle armi sequestrate che peraltro su tutti i giornali sono ampiamente fotografate. 9 manici di piccone, 10 asce, 5 seghe a spada, 20 coltelli di tipo sushi con lama di 30 cm. 10 mazzette da carpentiere in ferro, 5 mazzette da carpentiere in gomma, 3 cesoie da giardiniere, lama di 30 cm, 6 coltelli da bistecca, un coltello d'arrosto, una pistola elettrica, 90 petardi, un coltello a farfalla, 23 torce illuminanti, una molotov da razzo petardo, un tirapugni in acciaio, guanti da kickboxing. Buongiorno Fabio Tavelli. Non pensavo di intervenire in un programma di guerra o di teppismo, Gigi, hai cambiato genere? Di guerra in piena regola? No, volevo soltanto domandarti conto di questo per partire, poi è ovvio che arriviamo alla vigilia, alle poche ore che mancano a Inter-Barcellona. Volevo chiederti se ti risulta, come ministro degli esteri, che sia stato sequestrato, non dico un arsenale di questo tipo, ma qualcosa di simile comunque, a Londra dove si è giocato un derby, a Barcellona dove se ne è giocato un altro e a Manchester dove se ne è giocato uno tradizionalmente molto caldo, oppure sono cose di cui abbiamo meritoriamente l'esclusiva? No, in questo caso l'Italia vince per distacco, da questo punto di vista la competizione non c'è né tra i giocatori né tra il pubblico né tra i cosiddetti sostenitori, per cui è una vittoria larga da parte del calcio italiano da questo punto di vista. Io già immagino che tutti adesso staranno dicendo che non era il tipo di spirito e quanto e cosa voglia dire il derby a Roma, però io credo che a Manchester, dopo che per la terza volta consecutiva lo United riesce a battere il City a tempo scaduto e non succede niente, a Barcellona dove il derby invece nel derby di Barcellona ogni tanto qualcosa succede, derby che è andato via liscio tranquillo e le stesse cose sono accadute altrove. Beh, insomma, io credo che insomma, questa volta ci si sia fatti riconoscere un po' troppo, insomma. Non ho altre parole. Temo proprio di sì. Sempre come facendo questa marcia d'avvicinamento a Inter-Barcellona, cominciamo a poi ovviamente sul derby, sulle sanzioni e su altri risvolti, una lettera bellissima che ho ricevuto, una di un altro tenore su un altro argomento che certamente leggerò con enorme piacere più tardi. Marcia d'avvicinamento, dicevo, è stata abbastanza lunga quella del Barcellona e senza entrare nel merito che sia toccato a Barcellona piuttosto che all'Inter, poi toccherà a Liverpool farne il doppio di chilometri eccetera, io sfoglio solo le 24 ore di oggi e leggo nelle prime pagine dell'odissea di 300.000 viaggiatori, di insomma emergenza salute dalla Norvegia alla Spagna, insomma, a un'Europa messa in ginocchio da questo problema, conto salato per il turismo, le consegne alimentari e fieristiche penalizzate e bloccate dallo stop, 600 milioni di euro persi dalle compagnie, nessuno in borsa delle assicurazioni, eccetera. Poi ricordo anche che l'uomo, direi, più potente del mondo, e cioè il presidente degli Stati Uniti, causa questa cenere, non è riuscito a presenziare, non ha potuto volare a Varsavia per presenziare ai funerali di Stato di quegli sventurati vittime dell'incidente aereo. Si doveva svolgere oggi ad Atene un vertice del Fondo Monetario per la situazione difficilissima dell'economia greca. Tutto questo è saltato. C'è una sola cosa che non può saltare in Europa, che è il calcio. Io lo trovo ridicolo. Tu? Sì, ma sull'aggettivo possiamo possiamo, possiamo discutere. Però per me è ridicolo. Sì, la sensazione è che, insomma, d'altronde stiamo parlando di uno sport che è riuscito a non fermarsi la sera dell'11 settembre, per cui, cioè, fatto questo, fatto tutto. Trovo che da un certo punto di vista la spiegazione sia quasi logica, e cioè il panem et circenses fa sì che in un momento nel quale tutto sembra congiurare affinché la negatività venga a travolgerci, ci sono pure sti voli che ci lasciano a terra. Se gli togliamo anche Inter-Barcellona e Bayern di Monaco-Lione, insomma, magari questi qua si accorgono che la vita non è tutto sto idilio. Detto questo, è chiaro che il viaggio del Barcellona è un viaggio penalizzante. È anche vero che il Liverpool si farà una roba doppia, perché sono partiti da Liverpool, volevano imbarcarsi a Londra. Poi io in questi giorni sono molto sensibile sulle tracce aeree, conosco bene. Poi ci arriviamo, sì. Ecco, conosco bene la parola cancellato, e quindi è tutto molto complicato. La sensazione è che la strozzatura del calendario, la sensazione è che il voler comunque dare un po' di oppio dei popoli, e la sensazione di non voler privare comunque, cioè è il problema di quando paghi in anticipo. Cioè, quando tu hai pagato in anticipo, sì, poi quello che arriva. Se tu invece paghi dopo e paghi in base alla qualità di quello che vedi, allora magari certe decisioni vengono prese diversamente, ma siccome hai già pagato, e allora ti becchi la partita, fa niente se i giocatori magari sono stanchi, magari si infortunano, così, però io ti ho dato la partita, quella t'avevo promesso, poi sulla qualità non... No, ma al di là, prima ancora delle stanchezze eventuali di a chi tocca, perché è toccato a Barcellona, poteva toccare all'Inter, è toccato a Liverpool e poteva toccare all'Atletico Madrid, tocca al Lione, poteva toccare al Bayern, chissà la settimana prossima come sarà la situazione. Anche il Fulham va ad Amburgo, non è un altro viaggetto di piacere, ma al di là di questo è proprio l'idea, no, del fatto che tutto si può fermare al mondo, o perlomeno in Europa, il calcio no. E questo, su questo secondo me è una riflessione, la dovremmo fare tutti insieme. Beh, molti messaggi, ne prendo uno a caso. Non oso pensare, scrive Luca da Rissona, cosa avrebbe detto Mourinho fosse toccato a lui un viaggio in pullman a Barcellona. La domanda finale di Luca è: cosa ha detto Guardiola? Sentiamolo subito. Diciamo che non è la situazione ideale per, dopo una partita, dopo tre giorni, a fare 14 ore di pullman per affrontare una semifinale della Champions League contro l'Inter e Milan. Diciamo che non è la situazione ideale, ma è un problema di un vulcano, quindi contro questo non possiamo fare niente. Giochiamo contro una squadra come l'Inter di Milan, 4-5 volte campione d'Italia, una squadra che fa paura, nel senso che i suoi giocatori sono competitivi, straordinari in tutte le posizioni, quindi è chiaro che giochiamo contro qualcuno. A volte ci riusciamo, a volte no, basicamente no, perché non c'è voglia per parte della squadra, non perché non c'è l'atteggiamento adeguato, opportuno, sino semplicemente perché le altre squadre anche sono bravi. Da altre parti, insomma, da altre fonti, c'è stata una battuta, tra l'altro buona, di Guardiola, che ha detto: l'Inter è una grande squadra, però io sono contento di aver eliminato il CSKA, perché andare in pullman a Mosca sarebbe stata anche più lunga. Fabio, com'è il borsino del Barcellona? Perché questa è la domanda del giorno, no? Nel senso che noi possiamo raccontarcela finché ci pare, 50-50, sfida alla pari, eccetera. Io credo che come valori assoluti, nonostante l'Inter sia molto cresciuta quest'anno, come valori assoluti il Barcellona rimane la squadra più bella e più forte del mondo. Però ci sono i momenti per ciascuna squadra, no? Questo è un momento in cui, in Coppa per esempio, l'Inter ha dato grandi dimostrazioni, e il Barcellona in Coppa pure, in campionato ha avuto qualche flessione, che però ha avuto anche l'Inter. Com'è il borsino blaugrana? Ma devo dirti, loro avevano praticamente messo in tasca il campionato vincendo contro il Real Madrid, poi però la partita con l'Espagnol era una partita da considerare non facilissima, e quindi il fatto che l'abbiano pareggiata, secondo me non è un qualcosa che stupisca, anzi il campionato si deciderà comunque all'ultima giornata, ed è normale che sia così. Barcellona ha fatto delle cose fantastiche in casa, ha fatto delle cose fantastiche soprattutto in Champions League, ma lo ha fatto anche in campionato. Le giocate di Pedrito e di Messi nelle ultime giornate sono qualcosa di fantastico. Devo dire che un'idea che può essere intelligente nel momento in cui tutti si preoccupano di Leo Messi, e con l'assenza di Iniesta, potrebbe essere non diventare matti e ingabbiare uno che comunque, se vuole, riesce a sfuggire a qualsiasi maglia, ma cercare di bloccare Xavi, cioè magari concentrarsi un po' di più su Xavi per far sì che non arrivino a Messi tutti i proiettili che poi lui può, certo, può sparare. In questo senso il borsino del Barcellona è comunque altissimo, perché Xavi rimane comunque un giocatore che assicura un rendimento clamoroso per certi versi. Però complessivamente se abbiniamo il fatto che il Barcellona comunque dà più la sensazione di essere vulnerabile rispetto all'anno scorso, al fatto che l'Inter ha un crescendo evidente di maturità nelle proprie partite importanti. Se pensiamo alla gara d'andata, tanto Vittoria, cioè, l'editoriale di Vittoria, Vittoria la pensi allo stesso modo. Sta riflettendo anche lei sul fatto che sono le munizioni di Xavi che vanno un po' circoscritte. Senti, ammesso che Vittoria... No, io volevo dire solo l'ultima cosa, che cioè, l'Inter da questo punto di vista ha un crescendo che non è da trascurare. Cioè, l'Inter ha giocato in casa contro il Manchester United della prima grande sfida dell'era Mourinho in Champions League e l'ha sbagliata. Ha giocato in casa contro il Barcellona nella fase a gironi, comunque non una partita trascurabile, meno importante certamente, ma non trascurabile, e non l'ha giocata benissimo. Ha fatto anche peggio al ritorno. Ha giocato però poi in casa contro il Chelsea e ha dimostrato che un anno non era passato in vano. Facciamo finta di non vedere quello che sia successo col CSKA a Mosca, proprio perché l'avversario era così più debole, ma complessivamente l'Inter sta crescendo da questo punto di vista. E, insomma, se lo mettiamo insieme al fatto che il Barcellona ha qualcosina in meno dell'anno scorso, è vero quando si dice che la sfida è abbastanza equilibrata. Poi io trovo che il Barcellona rimanga favorito, ma non di tantissimo. No, questo no, certamente. Certamente, mi pare che sia proprio da mettere in quest'ottica qua, nel senso che è giusto che l'Inter abbia la fiducia nei propri mezzi, che sono molto cresciuti, come sono calati in campionato, sono molto cresciuti in campo europeo, ma non al punto poi da sottovalutare il Barcellona, no. Che può avere magari una piccola flessione, ma insomma, che rimane Barcellona, cioè una squadra il pareggio con lo Spagnol ci sta tranquillamente e non è minimamente paragonabile alla flessione che l'Inter ha avuto in campionato. E non dimentichiamoci che il Barcellona è ancora primo, l'Inter no. E chi veniva dietro, il Real Madrid, più o meno ha fatto il percorso della Roma, nel senso che pur non stando mai troppo distante ha comunque avuto gli ultimi tre mesi nei quali ha vinto praticamente sempre. Certo. E la differenza è che l'Inter lo scontro diretto l'ha perso contro la Roma, mentre invece il Barcellona l'ha vinto con il Real Madrid, quindi siamo ai massimi sistemi, onestamente. Certo. Chiusura con Inghilterra. Allora, intanto c'è una notizia sgradevole che è arrivata ieri a proposito del dopo derby di Manchester. Per carità, nulla di paragonabile a quanto è accaduto a Roma, però il fratello di Diouf, che è un giovane attaccante dello United, è stato assalito da un gruppo di tifosi del City alla fine della partita. Dato che aveva la maglia numero 22 del fratello, non si è capito bene se volessero se ce l'avessero con lui o col giocatore o col simbolo, che cos'era. Non ci sono state... Diouf non ha presentato denuncia, è soltanto un fascicolo aperto alle forze dell'ordine, però è un episodio certamente non da Manchester. Dal punto di vista tecnico, invece, dal punto di vista dei risultati, Chelsea-Manchester divisi da un punto alle ultime non so quante, ma mi pare tre giornate, mi sembra un finale discreto, degno di quello italiano. Sì, certamente degno, un po' per colpa del Chelsea, nel senso che il Manchester United poi aveva avuto una certa flessione, aveva pareggiato col Blackburn, aveva perso in casa lo scontro diretto col Chelsea e lì il campionato sembrava finito, al punto che forse era l'Arsenal quella che sembrava più in grado a quel punto lì di prendere la scia del Chelsea. Poi l'Arsenal ha perso col Tottenham, il Tottenham ha battuto anche il Chelsea sabato e a quel punto la classifica è diventata chiarissima per quanto riguarda l'Arsenal, perché l'Arsenal è riuscito a perdere contro il Wigan, vinceva 2-0, ha perso 3-2, ha fatto delle scemenze con i suoi portieri. Io onestamente, poi magari un giorno gli dedichiamo una trasmissione, come si possano pensare le squadre senza i portieri, io trovo che sia veramente da querela, ma va bene. Per quanto riguarda il finale di stagione, il Chelsea ha una partita complicata con Liverpool, ma ce l'ha in casa. Il Manchester United dovrebbe fare 3-3 e quindi fare 9 punti. Chiaramente anche il Chelsea deve fare 3-3 per poter vincere e poi preparare anche la finale di FA Cup col Portsmouth. Resta favorito il Chelsea, però certamente la sconfitta di sabato contro il Tottenham gli ha un po' complicato la vita. Arrivano un sacco di baci da trasmettere a Vittoria, caro Fabio. Adriano da Milano, ne cito uno per tutti. Grazie. Grazie a voi, un abbraccio. Ci sentiamo giovedì, come sempre. Al termine di queste due semifinali d'andata, perché per il momento siamo fermi lì. Dunque, ma quando le dovrebbero fare queste semifinali? Dopo i mondiali ci sono squadre di sport minori in Italia che fanno viaggi simili, scrive Daniele a Venezia. Sì, in Italia, infatti, non è che il mondo si deve fermare perché c'è una nube, però se si ferma un paese, anzi se si ferma un continente, perché l'Europa si è fermata, a me che non si possa fermare il calcio, lo sport, o chiamata come vi pare, insomma sembra una forzatura, ecco, mettiamola così. Poi le semifinali si fanno mercoledì dopo, se è per quello, perché il 28 le semifinali si chiudono di aprile, la finale di Coppa Campioni da quest'anno, lo ricordo, debutta di sabato, per la prima volta nella storia sarà di sabato, sabato 22 maggio, allora mi pare che almeno due mercoledì buoni ci siano, il 5 e il 12, il 5 c'è la finale di Coppa Italia, ma la Coppa Italia viene dopo la Coppa dei Campioni evidentemente, viene rinviata la finale di Coppa Italia e il 5 si fa quel recupero, ma questo non come scelta, intendiamoci, ma soltanto come concetto, cioè se c'è un'emergenza che riguarda un continente, che riguarda, ripeto, l'economia, la politica estera, riguarda tutto, ma perché non deve riguardare il pallone? Però è una domanda. Molti ascoltatori già collegati, sperando di avere la mano più felice di ieri. Mario da Genova, buongiorno. Buongiorno signor Garantini. Dica. Senta, già io ho telefonato due altre volte. Volevo solo segnalare alla rubrica molto, molto bella, mi sembra ieri, sì, che il 7 settembre del 1893, sì, fu fondato la società Genoa. Grazie Mario, grazie. È nato il calcio ufficiale in Italia. Fantastico, ne riparliamo i primi di settembre, abbia pazienza, è proprio solo per un problema di tempestività. Già preso nota, il 7 settembre ci ricorderemo di questa data, tra l'altro non inedita. Giuseppe, provincia di Messina, buongiorno. Buongiorno Garanzini, è sempre piacere sentirla. Mm-hmm. Due considerazioni velocissime se ho tempo. La prima, qui in Sicilia, dopo che è morto un mio collega a Catania durante il derby Palermo-Catania, hanno deciso finalmente di fare i derby con i tifosi ospiti assenti. Sì. Quanto dobbiamo ancora aspettare a Roma affinché vediamo un derby Lazio-Roma senza i tifosi della squadra che gioca fuori di casa? Prima cosa. No, io farei parità di trattamento e metterei tutte e due le curve. E tra l'altro, per la completezza di informazioni, io prima vi ho letto quell'elenco agghiacciante di armi. Questa era tutta roba sequestrata alla curva laziale, per la precisione. Fuori dallo stadio rimarrebbero uguali, mm-hmm, perché chiaramente non puoi gestire, ma perlomeno vedere quelle scene indegne all'interno di uno stadio con tifosi avversari che si picchiano a colpi di cinghia nel 2010 è veramente una cosa mondiale. Sono d'accordo con lei Giuseppe, grazie, e infatti non farei confusione con lo spettacolo, pure molto, molto brutto, molto abbastanza avvilente anche, che c'è stato nel finale di partita, con quello che invece era già organizzato da parte di questi criminali. Che differenza c'è, domanda Guido da Varese in una mail appena arrivata, di istigazione alla violenza tra il gesto e le manette di Mourinho, tre giornate di squalifico o il pollice verso di Totti, 20.000 euro? La maglia? Fino a quando non ci sarà imparzialità vera, il sospetto regnerà sovrano. Caro Guido, se non la capisce da sé la differenza, faccio un po' fatica a spiegargliela sinceramente. Cioè, in un caso è un gesto di sfottò verso una tifoseria avversaria, rivolto tra l'altro alla propria curva. E quindi siamo nell'ambito, come dire, della rivalità, sia pure insomma, bella carnosa, non so come dire. Nell'altro caso è un gesto rivolto all'autorità calcistica, cioè le manette, perché non mi fate giocare, non mi fate vincere, non mi lasciate giocare, non mi lasciate vincere. E proprio nel momento in cui il miglior arbitro italiano di quest'anno, che si chiama Tagliavento, sta arbitrando la sua miglior partita di tutta la stagione, ripeto, se non... Faccio fatica a spiegare sinceramente o a rispondere a questo genere di domande. Non so, se vuole le leggo Massimo Gremellini stamane nel Buongiorno sulla Stampa. Ma cosa avrà fatto mai il pupone per scandalizzare mezza Italia? Se fosse prodotto in qualche gesto o espressione scurrile, ma che? Ha solo irriso gli sconfitti, abbassando i pollici per augurare loro la Serie B. Non un comportamento da sportivo, ma da tifoso sì. Il tifo, scrive Gramellini, è la rivisitazione delle nostre infanzie. Una seduta pubblica di psicanalisi, tollerata finché qualcuno non si mise in testa che gli sfottò scorciatoie dei tifosi fossero la causa scatenante delle violenze degli ultra, che è come imputare i delitti di un serial killer alle zingarate di amici miei. Il violento è violento perché prende tutto sul serio, soprattutto se stesso. Eppure, per non eccitare la suscettibilità di gente manesca e disperata, a cui semplicemente andrebbe vietato di riunirsi in club organizzati, si pretende di trasformare il calcio in una palestra di buoni sentimenti, estirpando quell'effetto di macchina del tempo che ci permetteva di andare allo stadio per evadere dalla realtà con lo sberleffo malizioso del bambino. Ricordo quando il mio Pulici entrava in campo nei derby pulendosi le scarpe su uno striscione che raffigurava una zebra con la scritta La Pietà, o con molto meno piacere quando lo juventino Maresca mostrò le corna ai tifosi del Toro dopo un gol. Nessuno azzardò un nesso tra quei gesti e l'uso di spranghe e motoseghe. La strafottenza era ancora parte del gioco, come le interviste dissacranti dell'interista Prisco: se un milanista mi dà una mano poi me la lavo, se me la dà uno juventino poi mi conto le dita. Oggi lo squalificherebbero a vita. Grande Gramellini, come sempre. Fulvio, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno, bellissima questa di Prisco, non me la ricordavo sinceramente. Lo squalificherebbero a vita oggi, ripeto. Sì, oggi si verrebbe fuori un macello veramente. Poi, no, gliene dico ancora una che è carina, perché stamattina Ranieri, difendendo Totti, ha ricordato le parole di Di Canio, che sin da domenica sera ha detto: siamo nell'ambito degli sfottò, sono magari sfottò un po' crudeli, ma se non è crudele non è sfottò. E Ranieri dice: se i laziali avessero avuto una maglia con su scritto scudetto game over, ci sarebbe stata tutta. Ora, non è casuale questa battuta di Ranieri, perché c'era mezzo stadio con questa maglietta già pronta e già indossata, a quanto pare. Ranieri evidentemente l'ha saputo, queste cose poi si sanno, no? Non è che sarebbe stata tanto meno leggero, no, come sfottò, ma queste, cioè il nesso di causa effetto tra queste cose e gente che si presenta con l'arsenale che ho letto prima, cioè veramente mi fa dubitare dell'intelligenza di alcuni ascoltatori. Mi scusi se l'ho interrotta. Quello che le volevo dire è che Totti di fatto è anche uno, lo fa anche un po' per convenienza, comunque uno che si prende anche in giro tanto, e lo prendono tanto in giro, quindi sfottone subisce tanti. Vabbè, ha finito un derby, anche se ne ha fatto uno, se non mi sembrava così grave, insomma, tutto sommato. Il motivo della mia telefonata era questa, è una suggestione che ho, non so se è solo una suggestione, e nel caso ne abbiate già parlato prima mi scuso, ma magari avete già risposto. L'idea in questa partita di stasera di un centrocampo con Maicon alla destra, che era stata una specie di, avrebbe potuto essere una prova che Mourinho ha fatto durante Fiorentina-Inter di Coppa Italia, quindi l'idea di una difesa più rinforzata, magari con Cordoba a destra, Chivu, Samuel e Lucio, e un centrocampo con, che permetta le folate a Maicon, ma anche un uomo che sa fare una grande interdizione. Secondo lei è solo una suggestione o Mourinho potrebbe anche riproporla? Non lo so, Mourinho ne sta pensando tanti in queste ore, ma giustamente, no? Perché bisogna trovare il modo di circoscrivere Messi senza sbilanciare la squadra. Il discorso poi è questo: allora, escluso la marcatura uomo, anche perché oggi secondo me nessuno sa più marcare uomo senza andare fuori giri, né in difesa né tantomeno a metà campo, io credo che il suo primo pensiero sia per l'appunto la gabbia che va creata intorno a Messi, ma suggeriva giustamente Fabio Tavelli prima, il problema è che intanto se hai messo tre uomini a fare la gabbia a Messi, c'è le due in meno per dare un'occhiata ad altri che con la palla se la cavano. Bisogna tagliare i rifornimenti a Xavi e bisogna fare in maniera che il Barcellona la palla la prenda il meno possibile, perché quando la prende poi portargliela via è durissima, e quando corri a vuoto è il modo peggiore, no? di sprecare o comunque di impiegare le proprie energie. È una delle, quella che lei propone è una delle soluzioni, che però non credo che sia questa, perché penso anche che una squadra che è abituata a giocare più o meno sempre in un certo modo, più la partita è difficile e più debba stare entro, con qualche ritocco, ma entro quel certo canone. L'ultimo esempio della Roma domenica: la Roma è abituata a giocare in una certa maniera, Ranieri si è montato la testa alla vigilia, perché lui ha detto giustamente, per drammatizzare, che Totti e De Rossi sentivano troppo la partita. Secondo me con quella formazione di partenza l'ha sentita troppo anche lui, da romano a sua volta, e ha dovuto correggerla. Perché? Perché era troppo diversa da come la Roma aveva affrontato tutta questa parte migliore di stagione. Enrico ha chiamato da Torino, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Io premetto che sono un tifoso juventino, sì, ma in questa fase il mio intervento è volto a scagionare quello che è stato l'atteggiamento di Totti dopo il derby, in quanto il problema non è Totti, il problema è sono i tifosi, quindi un gesto a mio avviso del tutto goliardico. Purtroppo i tifosi tendono a non essere educati da un punto di vista sportivo, ed è questo il reale problema. Quindi in altri paesi probabilmente non avrebbe avuto tutta questo eco, questa risonanza. Certo. Il problema è che i tifosi estremizzano certi concetti di campanilismo all'eccesso, di appartenenza politica, certo, e anche, se vogliamo, di delinquenza comune. Quindi secondo me l'atteggiamento di Totti è assolutamente innocente o quasi, ecco, visto la fine del derby a caldo, evidentemente è assolutamente da scagionare, secondo me. È la tesi di Massimo Gremennini che citavo prima. Io adesso le propongo un'altra lettura, proprio a lei Enrico, che ringrazio, le propongo un'altra lettura, e questa volta non è un giornalista famoso e bravissimo come Gremennini, è un ascoltatore che si chiama Gaetano Amodeo e che ha scritto una lettera che io trovo deliziosa. Tanto dice: la seguo sempre in differita attraverso il podcast la sera, dal momento che non guardo la TV e quindi ho del tempo libero per costruirmi il mio palinsesto personale fatto da vari podcast, per esempio A Tempo di Sport, Caterpillar, Fahrenheit e altri ancora. Beh, insomma, già la compagnia mi sembra discreta, e quindi cito apposta per una volta questo inizio. Poi scrive Gaetano: mi sembra che si cerchi sempre di far passare i violenti come un'entità altra, estranea, che magicamente compare la domenica pomeriggio senza che nessuno se la potesse aspettare. La realtà, a mio modo di vedere, è invece che non si tratta delle due facce della stessa medaglia, ma di una faccia sola. Il mondo del calcio e gli ultra sono sulla stessa faccia e nemmeno in un ruolo di secondo piano. Un po' come in quei quadri che rappresentano le famiglie nobili o presunte tali, in cui ci sono tutti i personaggi schierati da destra a sinistra, nessuno è dipinto dietro la tela, tutti occupano il proprio posto e ruolo: la servitù, il cane, il prete, la giovane figlia, la moglie. È bellissima, no? Perché sembra di vedere uno davvero uno di questi ritratti di fiamminghi o di grandi spagnoli. Se si fa attenzione, ci si accorgerà del gioco di sguardi: tutti sono in relazione con gli altri in un perfetto equilibrio. Quindi domando: chi ha interesse davvero a rompere questo equilibrio? Nessuno. Lo si dice, ma non lo si fa, come nella miglior tradizione italiana, quando un qualsiasi fenomeno è in contatto più o meno diretto con la politica. Alla fine, dunque, conclude Gaetano Amodeo, il pollice verso è per noi appassionati sportivi che cerchiamo nel calcio un mondo migliore della società che lo ospita. Meno male che ogni tanto arrivano lettere di questo livello. Francesco Udine, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io ho solo una perplessità. Io di mattina mi alzo alle 6 per uscire e andare a lavoro. Sì. E volevo sapere perché io domenica sera alle 23:40 ancora non sono riuscito a vedere la mia squadra di calcio e devo vedermi il Barcellona alla domenica sportiva. Domenica sportiva italiana o cos'altro? Grazie. Francesco, giro il suo quesito alla domenica sportiva, cioè no, per carità, lei ha tutti i diritti di essere contrariato da ciò, però se chiamasse o scrivesse la domenica sportiva sarebbe oggettivamente più pertinente, direi, no, la sua protesta. Fermo restando che lei si alzerà anche alle 6 di mattina, ma se alle 6 di pomeriggio si mette davanti alla TV, sempre su Rai 1, sempre su Rai 2, credo, si guarda il suo 90° minuto e si vede la sua bella sintesi sull'Udinese, cosa che magari, non so, le suggerirebbe accenti meno indignati. Leonardo, provincia di Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. Ma io, a proposito dell'intervento della persona precedente, dico che comunque fanno vedere, diciamo, in proporzione al seguito di tifosi che le compagini hanno, perché io sì seguo diverse trasmissioni, ma vedo che diciamo quelle che occupano le prime posizioni in genere occupano tre quarti o più della trasmissione. Come normale che sia, Leonardo, no? Può piacere o può non piacere, ma insomma da che mondo è mondo, ma non soltanto alla Rai o dovunque, no? Più ci sono, più una squadra è popolare, più uno sport è popolare, più se no ricominciamo con la storia che il tamburello alle bocce hanno un po' meno spazio del calcio anche in questo programma, forse sì. A proposito di 20 aprile, oggi Nicola Filippone ne ha scovata una davvero, davvero carina. Sentiamo. Sembra ieri. 20 aprile 1988. Il sogno europeo dell'Atalanta tramonta nel ritorno delle semifinali di Coppa delle Coppe contro i belgi del Malines. Malgrado la spinta dei 40.000 del comunale, la squadra di Mondonico non riesce a ribaltare il 2-1 dell'andata. Nel primo tempo passa in vantaggio con Garlini, che batte su rigore Predom, ma subisce due reti nella ripresa. A sfidare l'Ajax nella finale di Strasburgo ci va quindi il Malins, ma l'Atalanta, che milita nel campionato di Serie B, rimane comunque la soddisfazione per aver realizzato un percorso eccezionale. Questo è vero, Predom era un grande portiere, tra l'altro, che secondo me dallo sguardo che aveva giocava con le lenti a contatto, con lo sguardo un po' tipico di chi ha le lenti, o perlomeno ha quelle lenti di quella generazione. Però era veramente un grande portiere. Molte squalifiche in Serie A, perché è chiaro che a fine stagione le ammonizioni si sommano, e quindi per raggiunto limite di ammonizione, di fida e dunque di ammonizione ulteriore, 18 squalificati, per esempio 3 del Milan, Bonera, Brosini e Boriello, 2 della Fiorentina, Gobbi e Dainelli, 2 della Juve, Sissoko e Melo, altri 2 dell'Udinese, San Marco e Zapata, e 2 del Siena, Ghezzal e Rosi. Segue il gruppo. Gianni da Torino, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, dottor Garanzini, io stavo pensando una cosa. Io ho lavorato in passati per parecchi anni allo stadio con un ruolo, facevo il barista, ecco. Sì. Entravamo prima dalla porta Carraia, dove entravano i tifosi, quelli organizzati, sì, per cui strutturati, entravano con gli striscioni ed entrava di tutto. Perché anche oggi si vede cosa sta entrando. Io mi chiedo, ma perché ci devono essere gli striscioni e i tifosi organizzati? Uno paga il biglietto per vedere la partita. Per quale motivo in Italia ci devono essere, negli altri paesi non mi sembra che funzioni così. C'è il motivo per il quale ci sia il tifo organizzato con tutta la struttura, dove magari un giovane si identifica in un gruppo, magari che può essere facinoroso, può essere magari estremista. Certo. Non si può evitare che negli stati ci sia proprio lo striscione, proprio che ci sia solo... Ma al di là dello striscione, sì, cioè non si possono sciogliere i gruppi organizzati, credo che sia la strada da percorrere. Credo che se un giorno da qualche parte si vuole arrivare, credo che questa sia una delle tappe obbligatorie, credo. Ma torniamo all'inizio, torniamo a questa mail di Franco Detti che scrive da San Vincenzo. Lo sapete perché si vince per distacco nei confronti degli altri paesi europei in fatto di derby? Ed è ironico ovviamente la frase, perché i nostri delinquenti non rischiano nulla, né civilmente né penalmente. Qui non si tratta di demagogia, è la realtà. Cominciamo a lasciarli in galera, a cancellare questi elementi dagli stadi, vietandogli la vita e facendogli pagare completamente i danni, scrive per l'appunto Franco Detti e conclude: ma i nostri cari politici per prima cosa sono tifosi e poi demagoghi. Basterebbe leggere oggi le dichiarazioni a proposito di Lazio Roma del sindaco di Roma. Grazie Gianni. Giuseppe, provincia di Rovigo, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Io sono un po' polemico con lei perché sì, la trovo a volte, quando vuole, un po' troppo fazioso su certe cose, e mi piacerebbe sapere da dove l'avete detto tutto quello che ha detto prima di Mourinho riguardo alle manette. Perché a me non risulta da nessuna parte quello che ha detto lei. E cioè? E cioè che era rivolto al potere, contro il potere calcistico che vuole vincere le partite, che lo lasciano vincere, ma... Cosa significava invece quel gesto? Ah, non lo so, me lo dica lei. Dove l'ha trovato tutte quelle parole che ha detto di Mourinho? Ma gliel'ho appena detto, Giuseppe, qual è la mia interpretazione, dato che Mourinho non si è mai degnato di fornirla esattamente. Lei, le sto chiedendo che interpretazione ha lei. Lei mi dice, me lo dica lei, io gliel'ho appena detto. Capisco che sia nell'ora di gestione, che un grappino ci sta bene, però insomma, entro certi limiti, secondo me. Grazie. Andrea, provincia di Caserta, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Senti, io sono intervenire sulla partita di stasera Inter-Barcellona. Sì. Non vorrei essere io a dare uno spunto a Mourinho, ma non ho sentito nessuno citare il precedente della finale di Supercoppa Europea, Shakhtar Donetsk-Barcellona, dove Lucesco, praticamente il Barcellona lo ha sterilizzato, nessun tiro perse all'ultimo minuto del secondo tempo supplementare. La saluto, aspetto Ma Andrea non è stato l'unico, insomma, l'anno scorso il Barcellona è stato messo in serissima difficoltà da Hiddink con il Chelsea. Quest'anno c'è riuscito, lei dice lo Shakhtar Donetsk di Lucescu, è vero, però eravamo a fine agosto, quindi il Barcellona sapeva che la stagione sarebbe stata lunga e a quell'ora non era in grandissima forma. Domenica scorsa c'è riuscito anche l'Espagnol a metterlo seriamente nei guai, il Siviglia l'ha battuto e l'ha eliminato dalla Coppa, cioè non esiste la squadra invincibile al mondo, non è mai esistita e certamente non lo è nemmeno questo Barcellona. Questo non toglie che oggi sia la squadra più forte del mondo, che come tutte le squadre di pallone non sono invulnerabili, possono essere battute. Lei ne ha citata una, ce ne sono altre due o tre che ci sono riuscite quest'anno, adesso vediamo se ci riesce l'Inter, è tutto lì, ma non è che, non credo che Guardiola abbia mai pensato che non avrebbero mai perso, no? Andrea, provincia di Caserta, buongiorno. Andrea, no, Luca, pardon, chiedo scusa. Luca ha chiamato la Brescia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo ritornare un attimo sull'argomento, diciamo, relativo al gesto di Totti. Sì. Sono perfettamente d'accordo che non è confrontabile il gesto di Totti al gesto di Mourinho e che non è per niente un gesto di per sé grave o incitante alla violenza, però non è neppure un gesto neutro, che secondo me minimamente, ma va comunque in qualche modo censurato, perché non è comunque un gesto bello né un gesto sportivo, e immagino che altri campioni, sto pensando ad esempio in questo momento a Paolo Maldini o Roberto Baggio, avrebbero semplicemente gioito come giusto, certo, ma non avrebbero fatto. Sono d'accordo. E infatti non avrebbero beccato 20.000 euro di multa, no? Sì, no, assolutamente. Mi sembrava che si tendesse a neutralizzare troppo, diciamo così. No, ma è giusto. Il gesto di Totti che comunque, secondo me, merita una censura, un buffetto, se vogliamo così. Certo, certo, non una... non la maxi squalifica che invocano. No, per carità, esatto, per carità, esatto, che viene invocata in maniera un po' eccessiva, mi pare, da un plotone di anti-romani, ma anti-romani più che anti-romani, perché infatti leggo provenienze di questi messaggi, insomma, che qualcosa significano. Mi spiace che non ci sia il tempo per una splendida lettura, che è un, però l'anticipo per domani o per postdomani. È una lettera ricevuta da un vecchio tifoso juventino emiliano che si è fatto, si chiama Giacomo Carra, si chiama Hermes Carra, e si è fatto aiutare dal figlio Giacomo a scrivere una splendida mail che, insomma, che ricostruisce la sua passione juventina, che risale addirittura al 3 gennaio del 1926, la prima partita che vide un Juventus Reggiana finita 5-0. Però, per il rispetto, dato che è una lettera abbastanza lunga, oltre che splendida, non vorrei rovinarla sintetizzandola in pochi secondi, quindi direi che anche oggi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento, quindi un grazie a Carmelo Lauricella in regia, altrettanto a Franco Piantanida in redazione. L'appuntamento è per domani, per il dopo Inter Barcellona. Vi lascio al giornale radio.